oggi, senza perdere un'ora. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 in punto, inizia la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Oggi è 1° giugno, quindi buon inizio del mese a tutti e tutti, soprattutto a chi lo trascorrerà purtroppo in carcere. E sappiamo che il caldo che a giugno è inevitabile, che arriverà, già sta arrivando, rende tutto più difficile. E dunque quindi l'augurio, come sempre, buona libertà, che arrivi al più presto. Intanto vediamo cosa si può fare per dare una mano a questa libertà, che da sola chiaramente difficilmente arriva. Arriva quella a fine pena, però insomma non è proprio quella la libertà che auspichiamo. Noi vedremo, come al solito, divideremo la giornata, questa puntata, la giornata intesa, la puntata di oggi, in due parti. Vedremo cosa succede nell'universo penitenziario, più che altro il vociare che c'è nei palazzi del potere sul carcere, ed è tanto il vociare, quindi è in atto, come dicevamo, un cambiamento. Non si sa ancora bene quale sarà esattamente la direzione, perché sono tante le forze in gioco, sono tante l'un contro l'altra armate, perché appunto chi vuole raggiungere un obiettivo, ovviamente per molti il business penitenziario, che è uno dei più grossi business, quindi interessa gran parte della classe dirigente, palazzinari ed annessi e connessi, e altri che vorrebbero portare su un altro terreno la questione carceraria. In questo dialettica così, contraddizione tra i potenti, dovremmo inserirci noi con un discorso sull'abolizionismo, con un movimento che porti avanti l'abolizionismo, e ne abbiamo oggi alcuni elementi per poterlo fare. Va bene, ci vediamo tra qualche secondo. E allora 15:05 adesso. Dunque, intanto dobbiamo aprire, purtroppo ancora un morto, un suicida nel carcere di Verona, il carcere di Montorio, Maurizio, un ragazzo, il 31 maggio si è impiccato nel carcere. E vabbè, e dunque ancora si muore in carcere, come vedete non è finita la mattanza, il massacro. Il problema è lì, è nel carcere, non c'è nessuna modifica da apportare, è da toglierlo di mezzo e si può iniziare un percorso per arrivare a questo obiettivo, non subito ma coi tempi che deriveranno in gran parte dalla nostra attività. Dunque, i punti che questa settimana si sono discussi sul problema del carcere sono sostanzialmente tre. Uno, che il senatore Manconi ha detto che ha fatto una proposta, l'abbiamo già vista l'altra volta, era iniziata la scorsa settimana l'agenzia che lanciava questo messaggio, ha presentato un disegno di legge il senatore Luigi Manconi per cambiare la metodologia per approvare indulto amnistia. Attualmente con la riforma del 1992 è stata portata a 2/3 dei parlamentari, ci vogliono 2/3 dei parlamentari per approvare amnistia e indulto, un numero pressoché irrealizzabile, difficile che se ne realizzi. Difatti, da quando c'è questa legge, una volta sola nel 2006 si è raggiunto, perché in realtà quasi mai sono presenti 2/3 dei parlamentari in aula e quindi è chiaro che difficilmente si raggiunge. Comunque è un numero veramente molto difficile da raggiungere. Lo vorrebbe portare alla maggioranza semplice, 50% più uno, come era all'inizio, subito dopo, diciamo, all'indomani dell'approvazione della Costituzione. E dunque quindi varie chi dice, chi a favore, chi contro. Poi l'altro punto è stato la questione della riconversione delle vecchie carceri, una parola riconversione che vuol dire tutto e non vuol dire niente. In realtà quello che ha proposto il ministro Orlando è di partendo da tre casi di tre prigioni, Regina Coeli, che è un monumento, ormai un monumento nazionale, un convento del 1600, poi San Vittore e Poggio Reale, partendo da questi tre, il progetto di legge ricalca un vecchio progetto alla metà degli anni 60, alla fine degli anni 60, dove quando si vendevano queste vecchi carceri che stanno al centro della città, quindi il cui terreno costa tantissimo, ha un valore enorme, e chiedere alle imprese che lo comprano, per farci quello che vogliono, di costruire un carcere nuovo in periferia. Questo è il meccanismo, quindi la stessa cosa vuol fare. Dice le motivazioni che porta Orlando sono quelle di dire che questi carceri qui sono vecchi, desueti, non funzionali, non servono più, fanno schifo. Tutto questo è vero, e quindi che queste carceri vanno chiuse siamo pienamente d'accordo, ma non per costruirne altre. Quello che dice delle nuove carceri, no, perché ne costruiremo di nuove a misura d'uomo, non esiste il carcere a misura d'uomo. L'unico carcere a misura d'uomo è quello raso al suolo, come diceva qualcuno, riferendosi ad altre situazioni. Non era una bella frase quella originaria, poi però è stata riconiugata in tanti modi, rimodulata. Quella originaria è quella, l'unico indiano buono è quello morto, dicevano le giacche blu, cioè i colonialisti del Nord America. I colonialisti europei del Nord America che uccisero, massacrarono tutti gli indiani, infatti tutti i morti l'hanno fatto. Non è stata una bella cosa, però proviamo perlomeno a farlo delle carceri. L'unico carcere buono è quello raso al suolo. Questo vuol dire non buttare giù le mura, l'abbiamo detto mille volte, quella è la cosa più semplice e la potremo fare in mezza giornata. Il problema è di togliere di mezzo il concetto di punizione per mezzo della privazione di libertà. Questo è il grosso modulo che porta con sé tante cose, ci sono state scritte centinaia di libri, ci sta tutto un filone della filosofia, della scienza, della scienza giuridica, della sociologia, della politica e del nostro lavorare, che è quello di cambiare la società, che vedono in questo meccanismo della punizione attraverso la sottrazione di libertà l'elemento fondante, purtroppo, di tutto il brutto che c'è nel moderno, della modernità. La modernità è il tentativo di creare una società omogenea in cui tutti siano uguali, non uguali per condizione economica, che sarebbe pure auspicabile, o per prospettiva, no, no, uguali proprio come robot, come movimenti, poi differenziati invece dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista delle condizioni di vita e di lavoro, molto differenziati per le cose che invece su cui sarebbe necessario maggiore uguaglianza, invece uguali per quanto riguarda gli atteggiamenti, il modo di comportarsi come dei robot, come delle macchine. E quindi fin dal 1600 ce lo dicono la gran parte dei libri, chiaro che libri che nessuno legge, poi ci stanno i libracci che dicono le menzogne e quelli vengono letti, purtroppo è così, però insomma, per citare i più grandi filosofi, non è una novità, insomma, lo sanno tutti. Il carcere nasce come dispositivo feroce di disciplinare, ammaestrare gli esseri umani a comportarsi in un certo modo in tutte le 24 ore, andare a lavorare sotto padrone, ubbidienti a quello che, facendo quello che vuole il padrone, prendendo il salario che ti dà il padrone senza protestare, poi costruire la famiglia per come la vuole il sistema di potere, muoversi poco possibilmente, più poco possibile, se non per fare acquisti quando sarà necessario fare, oltre del lavoratore, anche consumatore, e comprare quindi le merci che le fabbriche producono, sempre grazie alla forza lavoro dell'operaio. Quindi costruire corpi docili, come diceva Foucault, costruire il proletario operoso, come dicevano Kirchheimer nei primi del Novecento, prima ancora, da cui Foucault ha preso grandi insegnamenti. E va bene, queste sono questo serve il carcere. Il carcere è il pilastro della modernità, insieme alla fabbrica, sono i due pilastri della modernità. Hanno poi utilizzato pilastri che venivano dal passato, come la banca e la famiglia, e con questi quattro pilastri si regge la società moderna. E la cosa tremenda è che non solo si regge su questi quattro pilastri, ma ogni deviazione fa sì che sulla mente di chi devia da questi da queste modalità molto fortemente disciplinanti, viene attribuito lo stigma di essere anormale. Ecco, l'anormale, anormale, viene buttato in casa, oppure asociale, come volete, che poi significa appunto punirlo per rieducarlo, per ricambiarlo. È una merce venuta male, un prodotto venuto male, si rimette in lavorazione e si riproduce. Il meccanismo che il carcere fa con gli esseri umani è lo stesso che fa una fabbrica, un opificio, quando vengono fuori dei prodotti, qualunque si siano, un po' difettosi, li riportano dentro, li riaggiustano, li rimettono in circolazione. Questo è il meccanismo. Ovviamente l'essere umano, immagino che tutti e tutti siete consapevoli, è un po' più complesso di un oggetto. Bene, comunque c'è questa parte, torneremo su questo discorso. Poi l'altro elemento comincia oggi, il 1 giugno, ne avevamo parlato l'altra volta, queste manifestazioni contro l'ergastolo ostativo nelle carceri, dove ci stanno questi oltre 1300 persone relegate all'ergastolo ostativo. Ergastolo ostativo significa che dal carcere non si esce se non in cassa da morto. Non è un modo di dire, è un modo di reale. Cioè, chi è stato condannato all'ergastolo ostativo non può usufruire di nessuno sconto pena, né dei permessi, né della libertà condizionale, né della semilibertà, e quindi rimarrà in carcere per sempre, finché non muore. Questa è una pena di morte. In Italia è stata reintrodotta la pena di morte, nel silenzio agghiacciante più o meno di tutti. Ora, non è che sono solo i criminaloni, no, ci stanno 1300 persone, quindi un nucleo fortissimo. Ci stanno e stanno lì dentro a morire, insomma, e faranno fermate all'aria, battiture, sciopero del vitto, poi in tutti i carceri dove ci sono queste persone, esattamente sono 1619 i detenuti in ergastolo ostativo. In ergastolo 1139, in ergastolo ostativo 1174. Ecco, questi sono i numeri precisi che abbiamo ritrovato, non è che è facile mandare a memoria i numeri. 1619 condannati all'ergastolo. No, l'ergastolo semplice, anche se è una vergogna, permette dopo 26 anni di carcere di chiedere alla magistratura di sorveglianza di andare a fare gli ultimi 5 anni in libertà condizionata e quindi uscire dal carcere, almeno con delle limitazioni, però poi dopo 5 anni finita la pena. E mentre invece l'ergastolo ostativo non permette nemmeno questo, né permessi né semi libertà, nemmeno questa forma di uscita in libertà condizionale, e quindi si muore in carcere. Questi sono, questi oltre i 700 in 41 bis, sono la vergogna nella vergogna delle carceri italiane, sono vera e propria tortura. E allora hanno lanciato dal carcere di Catanzaro dei detenuti che sono in ergastolo ostativo di fare una mobilitazione, di mandare al ministero una lettera in cui tutti, ma anche chiedendo anche da fuori, gruppi di persone possono fare sciopero della fame, raccolta di firme e altre cose, no? E dentro al carcere faranno sciopero dei lavoranti, rifiuto del vito dell'amministrazione, fermata all'aria, sciopero della fame, eccetera. E si sperano che con questo si possa chiedere, avere un po' d'attenzione da parte del ministero per togliere questa bruttura. Va detto a corredo di ciò che una proposta di legge, sempre del senatore Manconi, è stata qualche tempo fa, 4-5 mesi, cioè era la fine dello scorso anno, quindi verso novembre-dicembre dello scorso anno, il senatore Manconi fece una proposta di legge insieme ad altri parlamentari per togliere l'ergastolo ostativo. Perché? Perché anche su questo terreno l'Italia, lo Stato italiano, aveva ricevuto una grossa tirata d'orecchie da parte degli organismi internazionali, perché chiaramente si chiama pena di morte, nascosta quanto volete, ma l'ergastolo ostativo è una pena di morte, e quindi molti organismi internazionali avevano protestato, anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma anche la sezione dell'ONU che riguarda i diritti dell'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, eccetera eccetera. Ebbene, avevano fatto una proposta per toglierlo. La gran parte dei partiti si sono opposti nel suo insieme, poi trasversalmente alcuni parlamentari avevano votato, però non ci sarebbe stata la maggioranza se andava in aula, però quel disegno di legge rimane lì. La cosa drammatica è che molti parlamentari, molte forze politiche, dimostrando la loro logica forcaiola, allucinante, reazionaria, nel dire no all'abolizione dell'ergastolo ostativo, hanno tirato in ballo la questione della mafia. No, perché i mafiosi dove li mettiamo? Lì la risposta sarebbe un po' volgare, non lo diciamo, però insomma, però la potete dire voi, chiaramente. Che non c'entra niente, perché questa cosa qui, se questi sono i numeri, 700 persone in 41 bis, anche qui dicono ma è mafiosa, e 1200 circa ergastolo ostativo, mi pare un po' troppi come boss mafiosi, non vi sembrano troppi? Quindi non è così, è uno dei grossi imbrogli che hanno fatto, e va bene, e va male anzi. Insomma, questo è uno dei punti centrali. Quindi parte da questa cosa. Se volete fare qualcosa, ho messo sul blog dove metto delle cose, ho messo anche il modulo per chi vuole fare una protesta e inviarla al Ministero della Giustizia. Poi che c'è ancora? E questi sono i temi. Vediamone uno per uno. Allora, sulla la proposta di ritornare alla maggioranza semplice per votare amnistia e indulto, tutti i giornali ne hanno parlato, a parte il dubbio di Sansonetti, la gran parte dei giornali erano completamente contrari. Tra l'altro il senatore Luigi Manconi l'ha fatto in omaggio della morte di Marco Pannella, che da sempre si è battuto per amnistia e indulto, e ha detto, per omaggiare così la morte sua senza fare portare corona di fiori o altro, la cosa migliore è lanciare appunto una battaglia per riportare l'amnistia e indulto a maggioranza semplice, in modo che sarebbe possibile. La gran parte dei giornali, cercando di nascondere il loro essere così forcaioli e reazionari, ha detto: ma se poi la lasciamo così, tutti questi potenti che manderemo in galera chiedono agli amici loro che stanno in Parlamento che possano uscire. Questa cosa si è detta, ormai si dice dal 92, appunto da quando fu messo i due terzi, ma faccio una semplice domanda: quanti potenti sono andati in carcere? È vero che l'imbecillità è la pietanza che consumiamo più spesso in questo paese, e non solo in questo, però insomma c'è un limite all'imbecillità. Non ci sono i potenti in carcere, non ci sono andati nemmeno al tempo di Mani Pulite, figuratevi se ci hanno adesso. Non ci vanno perché il carcere è fatto per i proletari, per i poveri, per gli emarginati. Non ci vanno, quindi non è che non bisogna avere paura. Quando fecero quella porcheria di portare la possibilità della missione indulto nel 92 appunto a due terzi, quindi rendendola praticamente impraticabile, impossibile, la motivazione era questa: dice, adesso che comincia Mani Pulite, era il periodo che iniziò quella battaglia, no? Mani Pulite, Tangentopoli, eccetera, adesso che andranno in galera tutti questi potenti, questi con l'amnistia usciranno subito, chiederanno agli amici loro di fare l'amnistia, usciranno subito. Non ce n'è andato manco uno. Quindi perché si continua a dire stupidaggini sapendo che sono stupidaggini? E questa domanda rimarrà ovviamente non inelusa. Ma vediamo invece alla questione della riconversione delle vecchie carceri. Qui il problema è grosso perché nasconde tanti altri problemi. Allora, vediamo che cosa ha detto proprio, eccolo qua, dove sta, vediamo, volevo vedere ciò che aveva detto il ministro. Comunque ha detto, appunto, ci sono le carceri, sono vecchie, quasi tante carceri, quindi noi vogliamo partire da tre carceri per risolvere la questione del sovraffollamento e riconvertire un patrimonio ormai vecchio. Abbiamo dato la possibilità perché abbiamo bisogno di carceri concepite in maniera diversa. Non è vero che abbiamo bisogno di non carceri, casomai di altre cose. Sta agli enti locali verificare se ci sono i presupposti e le indicazioni urbanistiche adatte. Lo ha detto invece. Che cosa ha detto? Quindi queste carceri verranno date alla Cassa Depositi e Prestiti, che le metterà, che tratterà direttamente con imprenditori privati. Gli darà questi bei pezzi di terreno, vecchi edifici al centro delle città, perché tutte e tre questi stanno al centro delle città. Regina Celi, sapete dov'è? A Trastevere. San Vittore sta al centro di Milano, Poggio Reale sta al centro di Napoli, quindi ci faranno alberghi, ci faranno altre porcherie così, centri commerciali, non lo sappiamo. Il problema che noi adesso, quindi una cosa, questo è il business per i palazzinari, se è questa rilanciare l'economia, costruire nuove carceri vendendo pezzi di terreno centrali, cioè anche tra l'altro Regina Celi è stato dichiarato un monumento perché è un convento del 1600 e andrebbe lasciato così per far vedere, non tanto per una logica da museo, però lasciare per esempio quel carcere, però ripristinando le celle come erano qualche decennio fa, e far vedere alle scolaresche com'era la civiltà italica tanto esaltata quando incarcerava la gente, come li trattava, sarebbe bene, così uno gli passa la voglia di dire andiamo a esportare la democrazia, perché se era quella porcheria lì la democrazia insomma, non viene più la voglia. E quindi il primo punto è questo: non lasciare al centro di queste città, già invase da centri commerciali, alberghi, movide, impicci, locali, localetti e altre porcherie simili, non lasciarle in mano agli speculatori. Ma è il punto, vabbè, spero che se ne occupino gli ambientalisti, cose eccetera, di questo compito loro. Noi ci occupiamo di un altro punto. Allora, se è vero, perché l'ha detto Orlando, quindi a questo punto utilizziamo le sue parole, che queste carceri sono vecchie, inutili, inadatte a farci vivere delle persone, non servono più a quello che è il compito del carcere, di rieducare, questa parola stupida che usano, se questo è il fatto, queste carceri vanno chiuse, ma non per costruirne altre, perché si acceleri quel passaggio dal carcere ad altre forme di sanzione, che va bene che siano anche, tanto è nelle cose, che siano quelle di trasformare la detenzione in carcere in controllo penale esterno, che è una tendenza che si sta avviando, sta funzionando, si sta allargando di molto il controllo penale esterno, cioè il fatto che invece del carcere ti mettono o agli arresti domiciliari con possibilità di uscire per lavoro o in detenzione domiciliare, oppure in le varie misure alternative che vanno dal lavoro all'esterno, la semilibertà, l'affidamento in prova ai servizi sociali, l'affidamento sulla parola e così via. Sono tantissimi, no? Ecco, bene, ed è una tendenza che sta andando avanti massicciamente. Bene, quindi a che serve costruire nuove carceri? Acceleriamo questa tendenza, trasferiamo le persone che stanno in carcere, perché la gran parte sono persone che hanno da fare 3, 4, 5 anni di carcere, sono la maggior parte al di sotto dei 5 anni, quindi possono andare benissimo tutti in misura alternativa. Con le leggi di oggi non bisogna manco fare altre leggi. Questo problema qui. Dopodiché il problema ce l'avremo sui territori, ma intanto è inevitabile, lì ce l'avremo, lì sta a sviluppare la repressione, si svilupperà lì, e lì la dovremo combattere, e lì ci misureremo, lì si giocherà la partita, se vincerà il controllo delle popolazioni povere, sfruttate, sottomesse, emarginate nei quartieri periferici, oppure vincerà invece la voglia di cambiare gli assetti sociali, quello che pensiamo di fare. Lì si giocherà quella partita. Quindi il carcere già non serve più, è una struttura vecchia, serve solo per fare i sporchi guadagni appunto palazzinari e altri imbroglioni del genere, e per chi ci va dentro a devastare, distruggere, annientare delle persone, torturare delle persone, che non serve a niente. Serve appunto soltanto a fare, non si possono fare i soldi sulla pelle della gente, e quindi però, come vedete, abbiamo adesso una carta in mano, se si vuol fare dare corso a un movimento abolizionista. Si prende ciò che ha detto, non l'ha detto solo Orlando, ha raccolto quello che hanno detto i 18 tavoli per ricordare quando hanno fatto gli stati generali per l'esecuzione penale, e tutti studiosi, giuristi, psicologi, sociologi, cioè hanno detto quelle carceri vecchie non funzionano più. La gran parte delle carceri sono così. Infatti Orlando ha detto: adesso vogliamo sperimentare su 3 carceri, guardate un po', sono quelle più appetibili, che stanno proprio al centro della città, no? Laddove appunto Milano, Napoli e Roma, questi 3 carceri stanno in una pozza d'oro per i palazzinari, i truffatori che vogliono utilizzarla per fare sporci comodi. Ebbene, e quindi prendiamo questa cosa per dire: no, Regina Coeli, Poggio Reale, San Vittore, ma anche tutti gli altri carceri vecchi vanno chiusi, ma senza costruirne altri, non servono. Acceleriamo il movimento di spostare le persone dal carcere in misura alternativa, poi ci giocheremo lì la battaglia. È chiaro che sarà dura, è chiaro che la tendenza del controllo repressivo, ossia della possibilità di governare il malessere della città, delle città, in una fase che vedrà sempre di più peggiorare le condizioni di vita delle persone, questa è una tendenza inevitabile, lo dicono tutti, grandi economisti, studiosi, la tendenza in questa parte del mondo, ma non solo in questa, in tutte le parti, in questa in particolare, sarà un peggioramento delle periferie urbane, delle classi disagiate, eccetera, e il controllo di questo malessere lo voglio esercitare con il controllo territoriale. Questa è la tendenza. Per riportare il conflitto e il disordine sociale, non per estirparlo, distruggerlo, questo non gli passa nemmeno per la testa. Non siamo in una fase in cui il potere vuole distruggere il conflitto, perché il conflitto ha carattere rivoluzionario, come fosse, che so, il 77, il Biennio Rosso, altri movimenti, quando è talmente forte e ha un carattere rivoluzionario che lo deve distruggere. A quel punto mette i carri armati in piazza, come fece Cossiga, o usa appunto il fascismo per distruggere l'insorgenza operaia del Biennio Rosso, eccetera. Attualmente non c'è questa, quindi lo vuole ricondurre il conflitto dentro i canoni stabiliti. Questo è il problema. La repressione oggi, non è inutile usare, capisco gli slogan, però alcuni slogan sono profondamente sbagliati. La repressione non vuole annientare il conflitto, non vuole azzerare il conflitto, vuole ricondurlo dentro i canoni stabiliti, dentro i canoni che non mettano in discussione l'ordine esistente. Chiaro questo? È questa la repressione, e noi su questo dobbiamo batterci, e questo sarà il controllo territoriale che sta già avvenendo, e noi come al solito, nonostante lo sapessimo, ci siamo fatti cogliere impreparati. Vabbè, quindi il problema si giocherà lì. Le carceri vanno chiuse, ma e non va fatto un business distruggendo anche dei luoghi che sono al centro della città, quindi creando ancora più problemi di traffico, di tutto, insomma, nella città stessa. Questo problema è quello della riconversione delle vecchie carceri. C'è per noi è una grossa carta, però, che dobbiamo prenderla in mano per portare avanti il dato di fatto che il carcere è ormai obsoleto, non serve più, sono vecchi, disfatti, eccetera, e quindi bisogna togliere di mezzo, cominciando chiaramente dal basso, le condanne più corte, quindi i reati più piccoli, via via salendo, intanto cominciando a svuotarlo. Questo è l'obiettivo. Ora, poiché mi fissiano le orecchie, perché già sento, perché arriveranno telefonate che dicono levi il carcere, dice, e allora ti dicono, e allora gli stupratori, i violentatori, gli assassini dove li metti? E tirerà fuori qualcuno, tutti e tutte avranno in mente il fatto tremendo che è successo qualche giorno fa proprio qui a Roma, quella ragazza che è stata uccisa dal fidanzato, bruciata viva in maniera orribile, perché appunto era geloso e non voleva che lei lo lasciasse, e quindi molti già su molti giornali, su internet, da parte di mettiamola all'ergastolo, rimettiamo la pena di morte, cioè, oppure si chiede leggi, si chiede polizia. Ecco, questo modo qui è molto chiaro, questo qui è il punto più alto, ovviamente è la punta dell'iceberg di tutta, diciamo, il mondo della che trasgredisce la legge, questo fatto qui è il fatto più grave, ovviamente. Però Ben ci spiega perché la gente chiede ergastolo, addirittura pena di morte, chiede più polizia, ma buttarli in galera e buttare le chiavi rispetto a questo fatto che è successo. Qual è il problema? Perché rimuove il problema che sta dentro ciascuno e ciascuno, prevalentemente dentro ciascuno di noi, perché è un problema della sottocultura maschile, questo fatto di aggredire la compagna, la fidanzata, la moglie che non rispetta più la tua, il tuo dominio di proprietà. Questo è il problema. È come se si vuol dare ad altri, in questo caso allo Stato, alla legge, il compito di rimuovere un problema che sta dentro di noi. Cioè la violenza maschile sulle donne è un problema che fa parte della cultura maschile, sia chi l'esercita questa violenza sia chi non l'esercita. Nessuno è innocente qui, nessuno ha le mani pulite, lasciamo stare il fatto. Ora, il problema della cultura maschile, basta vedere le parole che ha detto la madre di questo ragazzo, di questo assassino, di questa persona abietta. Che cosa ha detto? Ha detto: è un bravo ragazzo mio figlio, era solo un po' geloso. E beh, è lì il problema. Che cos'è la gelosia se non un'affermazione di proprietà? Questa persona è mia, questa donna è mia e non deve assolutamente avere altre storie o lasciarmi. E quindi, e poi questa gelosia si può esprimere in mille modi, e quello è uno dei mille modi, dei 10.000, dei 100.000 modi. Ora, questa cosa non si batte con le leggi, non diciamo stupida, ci stanno posti, luoghi, paesi, tanti sono i paesi che hanno per esempio la condanna a morte, la pena di morte per sanzionare il reato di stupro, a voi tantissimi sono, tantissimi hanno il reato di morte per sanzionare l'omicidio, il femminicidio in questo caso, ma ebbene in quei paesi, se vedete i dati, gli stupri o i femminicidi sono più alti che negli altri paesi. Quindi, come vedete, non è la legge, non è il codice penale che cambia, che può cambiare queste cose. È al contrario, il codice penale che casomai prende atto del cambiamento culturale, se questo avviene, o comunque che comunque avviene in un senso o nell'altro. C'è il rischio che per esempio in Italia la cultura generale stia cambiando, ma in un senso ancora più reazionario di come era prima. Non è mai stata granché libertaria, però adesso sta deviando in un senso ancora più reazionario, e non c'è legge, non c'è polizia che risolve una storia. Lo risolve soltanto una battaglia interna al corpo maschile della società per criticare questa sottocultura, e criticarla non a parole. Non serve fare i convegni, non serve essere politicamente corretti, non serve usare le parole, serve soltanto mettersi in discussione, mettere in discussione il proprio ego che vuole una proprietà sulle cose ma anche sulle persone. Allora 15:40, riprendiamo. A proposito del discorso della riconversione delle vecchie carceri, cioè quindi la vendita alle vecchie carceri privati perché costruiscano fuori, in lontana periferia, c'è poi da dire tante altre cose. Per esempio, intanto c'è tutto questo abbellimento e questo dare troppa importanza all'aspetto architettonico. Sembra un altro trip positivista del periodo positivista, ma anche illuminista, se volete, precedentemente, il fatto che si pensava che una struttura architettonica potesse cambiare la qualità, l'atteggiamento culturale delle persone. Non è vero così, non è solo quella, tant'è vero che sapete tutti, per esempio qui a Roma, tutti conoscono Corviale, il blocco di Corviale, quello fu fatto da architetti ben motivati che pensavano di riprodurre una cosa costruita nella Vienna degli anni 20 o anche 20-30 e anche prima del nazismo, o anche in Germania, laddove si costruivano questi complessi abitativi molto grossi, ampi, in cui ci potessero essere le abitazioni ma anche i servizi in comune. Il problema era di liberare le persone, le famiglie, in particolare le donne, delle incombenze di carattere cucina, lavaggio, pulizia, tutte queste cose qui. In questi grossi complessi ci sta un asilo nido per tenere i bambini, cioè una serie di cose, però il meccanismo che erano autogestiti, e poi il problema che erano costruiti perché la realtà sociale che si era mossa sul terreno dei consigli di zona, dei consigli di quartiere, perché si tentava di costruire dal basso un'altra società, quella fatta sui consigli, e questi consigli decidevano o avevano in mano il potere decisionale per come si dovesse muovere l'insieme di quella realtà sociale in quella zona. E in quel caso quindi la cosa funzionava, ma aver costruito su quello stesso modello, abbiamo ricopiato lo stesso modello, begli imbecilloni. Ma voi pensate che i mattoni, i muri cambiano le persone? Quello era un complesso di cose in cui c'era pure l'aspetto architettonico, ma era al servizio funzionale, cioè successivo. Non può essere l'aspetto prioritario quello architettonico. Lì era un progetto complessivo che nasceva dal basso sui consigli, perché si voleva costruire il comunismo dei consigli, questo era l'obiettivo, e in questo questa parola aveva un senso grandioso, era quella proprio di cambiare la società levando quindi tutte le baracche istituzionali e dando il potere prendendo il potere ai consigli di zona, di realtà, ecco, che potevano anche organizzare la vita quotidiana in maniera diversa. A seguito di questo loro hanno dato indicazione, questi consigli hanno dato indicazione agli architetti, e allora che hanno costruito le strutture perché ciò potesse veicolare, viaggiare, essere facilitato. Non può funzionare il contrario, che hanno costruito, abbiamo costruito sul modello di quelle costruzioni, di quei complessi della Germania e dell'Austria degli anni 20-30, e poi la gente si è buttata così. Intanto è sperduto fuori dalla realtà cittadina, quindi senza relazioni sociali, buttati lì come individui atomizzati, cioè completamente isolati dal resto, senza relazioni, senza strutture auto-organizzate, è chiaro che è finito nel degrado. Ma e adesso si può fare la stessa cosa sulle carceri. Dice: costruiamo delle carceri, cioè, ha messo al lavoro architetti imbecilloni. Che ne può sapere un architetto di quello che prova una persona privata della libertà? Gli può fare la tendina, la finestra, ma stacci in galera. Allora bisogna fare come faceva qualcuno e diceva: vuoi progettare le carceri? Bene, fatti 2 anni di carcere e poi le progetti. Ecco, non vi dico chi è, ma qualcuno che c'ha qualche annetto se lo può ricordare. Ma o è così, oppure lasciate stare, non fate ste bugiate. Non è l'architettura che può cambiare la sofferenza, l'annichilimento, la devastazione della privazione di libertà. Quindi è veramente una grossa baggianata, una grossa stupidaggine. Questo non è il punto, una carcere costruita architettonicamente funzionale, che può permettere quella rieducazione che nei 400 anni di carcere non ha mai funzionato, non è mai stata attivata, non esiste, non c'è un caso di persona rieducata nella struttura carceraria, qualunque essa sia, con le tendine rosa oppure con i bagarozzi in cella, non ha importanza, non è quello, quella cosa non funziona. Funziona un altro meccanismo, anche qui soltanto strutture auto-organizzate di base possono discutere anche del problema di chi trasgredisce le regole. Si discute tutti insieme e si trova un modo per riattaccare, ricollegare questa persona o queste persone che si sono staccate da quel collegamento comunicativo del consiglio e riallocarli nei modi che sceglieranno. Non è che lo deve decidere un magistrato che cosa fare, lo decide appunto il collettivo decisionale. Va bene, questo è il problema. È pericolosa questa cosa qui, perché sembra ritornare ai modelli di metà Ottocento, quando si pensava che costruire il carcere in un certo modo avrebbe favorito la rieducazione. Ovviamente ha favorito soltanto la devastazione. Le carceri nuove, come si dice, contemplano più suicidi che quelle vecchie, tanto per essere chiaro. Non è quello il problema, non è qui lì la soluzione, quella è parte del problema, non è parte della soluzione. La soluzione è chiudere sì queste carceri e non farne di nuove, e far uscire la gente, e far uscire le persone che, a cui la gran parte, a cui manca poco, 5 anni per fare la galera, e cominciare 5 anni di pena da scontare, e quindi utilizzare appunto le misure alternative. E intanto si comincia a svuotare il carcere. Stante i numeri attuali, quindi delle persone che stanno in carcere, delle condanne che hanno e del residuo pena che hanno, si potrebbe attestare attualmente, senza nuove, la presenza in carcere intorno ai 25-30 mila. Questa è la realtà. Quindi intanto raggiungiamo quell'obiettivo, poi ci poniamo il problema di come continuare a svuotare il carcere. Ecco, dove andranno questi? In misura alternativa, ci stanno anche già le leggi, basta accelerare i meccanismi. È chiaro che la procedura adesso burocratica e pesante non vede possibilità, vanno messi dei meccanismi automatici molto rapidi, veloci, e quindi si può raggiungere costruita e poi si può arrivare a ridurre sempre più la presenza in carcere, finché ci si renderà conto tutti che quella cosa tipo carcere non serve, quello strumento di tortura non serve, anche perché, a meno che non pensiamo che la tortura rieduchi veramente le persone, lo pensavano ai tempi dell'Inquisizione, ma oggi non più. Intanto oltre tante cose appunto hanno pensato al ministero, oltre a questa cosa di vendere le carceri vecchie chiamandola riconversione, quindi facendo un grosso regalo ai palazzinari, c'è a carcere di Marassi a Genova, uno dei peggiori carceri in assoluto. Bene, al carcere di Marassi hanno pensato, hanno preso dei reparti ci vogliono fare dei laboratori in parte dentro, in parte all'esterno. Perché fare? Per mettere i detenuti al telefono, per fare dei call center che poi vengono ovviamente utilizzati da privati per far lavorare i detenuti. Ovviamente questo incontra anche la necessità dei carcerati, che non hanno 2 lire per comprarsi le sigarette, quindi se gli si propone lavoro ovviamente accettano, e quindi va bene per loro. Però questo significa, di nuovo, le imprese private tornano in carcere, erano uscite tempo fa per una serie di meccanismi. Bisognerà vedere, anche perché, come abbiamo detto più volte, un periodo, nei primi del Novecento, c'erano le imprese dentro le carceri che utilizzavano la forza lavoro dei detenuti per fare cose e che quella forza lavoro costava molto meno, un terzo di quella che costava fuori, e quindi era una sorta anche di concorrenza sleale rispetto alle altre fabbriche. Per esempio la Girardengo faceva le biciclette in carcere, per esempio quella che faceva le strutture elettriche, la Bitticino che faceva interruttori eccetera, e tante altre. Poi sono state levate anche perché i sindacati si sono opposti, perché appunto dicevano era non solo una concorrenza sleale di fronte a chi utilizzava forza lavoro tra virgolette libera, insomma esterna, e invece in carcere che come sapete non solo costa di meno, ma non può scioperare, non può organizzarsi sindacalmente, quindi è un problema. Adesso la reintrodurranno, vedremo a che condizioni però. Intanto cominciano a ammararsi, a mettere il call center. Quanto verranno pagati queste persone? Sarà applicato il contratto collettivo di lavoro oppure no? Potranno, perché il rapporto, per quanto è infame il rapporto capitale forza lavoro, cioè quando una persona vende la forza lavoro per andare a lavorare sotto padrone, ecco questa cosa qui, però negli ultimi 150 anni la forza lavoro, gli operai, le operai si sono conquistate l'organizzazione sindacale, la possibilità di scioperare, di fare rivendicazioni eccetera. Questa cosa è vietata ai detenuti, in quanto detenuti non possono fare assemblee, riunirsi, prendere la testa sindacale, scioperare. Quindi come funziona questa forza lavoro particolarmente schiavizzata? Perché chi lavora in carcere, attenzione, e non lo dico io, lo dicono il 99% degli analisti del carcere, chi lavora in carcere è uno schiavo oppure una schiava. Allora, come avete visto, partendo e parlando di ciò che succede nell'universo carcerario, ciò che i potenti, chi sta alle istituzioni, chi sta al potere, parlamentari, governanti, eccetera, partiti politici, elaborano sul carcere, siamo arrivati a capire che in realtà l'unica battaglia seria da fare, anche rivendicativa, è quella di abolire il carcere. Ovviamente è una cosa che non è che da domani chiudiamo tutte le gare, però cominciare a svuotarlo è una battaglia importante, perché si dà un senso. Intanto perché se si svuotano le carceri, ovviamente anche mettendo le persone in misura alternativa, poi lì faremo un'altra una battaglia, perché in misura alternativa però stanno nel territorio dove dovremmo essere forti, noi auto-organizzati, ben legati con la popolazione, lì potremo e ridurre la brutalità di quella sottrazione di libertà che pure là nel territorio, cioè nel controllo penale esterno, quello che si attua nel proprio domicilio, il territorio, eccetera, lì con la presenza, non sta isolato come in un carcere, con la presenza della popolazione del quartiere, se auto-organizzata, può rendere più leggera, più no? questa sottrazione di libertà, può addirittura annullarla. Questo è l'obiettivo. È chiaro, è una battaglia, non è regalata. Loro vogliono portare il controllo penale dal carcere al territorio. Questo è il loro obiettivo, perché devono controllare il territorio, non più il trasgressore, il delinquente. Questo è un retaggio antico che serve per prendere voti durante l'elezione, ma non per esercitare il controllo sociale. Il controllo sociale si porta nei quartieri, nei territori. Loro si stanno attrezzando e noi non mi pare tanto. Comunque bisogna accelerare un po', perché là il terreno dovrebbe essere più favorevole a noi, nei nostri territori, nei nostri quartieri ci siamo noi, è possibile organizzare le persone, è possibile quindi esprimere un rapporto di forza molto più alto, molto più forte, molto più incisivo che non in carcere. Bene, perché il carcere è una struttura separata, invece nel quartiere no. Allora, e quindi arriviamo quindi al discorso dell'abolizionismo. Questo è un percorso, è chiaro che il movimento abolizionista parte, è un percorso anche di lunga durata, perché noi diciamo che l'abolizione delle galere è anche l'abolizione del sistema di sfruttamento capitalistico che oggi vige tranquillamente. Quindi le due cose devono andare di pari passo, e se voi vedete le strutture che diciamo per attenuare, per contrastare il controllo territoriale della repressione, sono le stesse che permettono di attenuare, contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, dei proletari, dei territori. E quindi è chiaro che è come due buoi che tirano la stessa carretta, marciano di pari passo. Bene, il punto è che dobbiamo far capire alle persone, a tutti, anche a chi non è andato in carcere, chi non c'ha un amico, un parente in carcere, che il sistema carcerario è un controllo penale, è una sottrazione di libertà, ma che serve non a quello che viene buttato in galera, serve a tutti noi, a tutte noi, serve a disciplinare, a irregimentarci, ad ammaestrarci, a fare solo e soltanto quelle cose, cioè a diventare dei robot, ma serve a noi più che a loro, capito? Per uno che se ne butta in galera, mille persone che ruotano intorno a questa persona, secondo le idee dei potenti, vengono disciplinate, ammaestrate a comportarsi così. Il problema non è trasgredire una legge, ma è fare dei comportamenti in sintonia con l'ordine attuale da mantenere. Questo è l'obiettivo loro, che si realizza con la repressione, col carcere e con tutti i sistemi di controllo. Attenzione, non è perché quello che si dice a volte un po' così in maniera irruenta, perché vogliono abolire il conflitto. No, vogliono semplicemente portare il conflitto nell'ambito del consentito, perché c'è un conflitto consentito, quello che si fa secondo i canoni, le leggi esistenti, i regolamenti esistenti, in modo che tutto rimanga inalterato. L'obiettivo loro è fare in modo che la società, questa basata sullo sfruttamento, sui poveri sempre più poveri, sui ricchi sempre più ricchi, sul fatto che i poveri vengono sfruttati dai ricchi e così via, di tutto questo meccanismo che chiamiamo lo sfruttamento capitalistico, tutto questo proceda inalterato, che non ci siano modifiche, che la società di domani sia uguale a quella di oggi e quella di dopodomani lo stesso e così via. Questo mirano loro. Quindi c'è la possibilità che loro vogliono realizzare questo, che ci sia un conflitto che rientri nell'ambito del consentito, che non modifichi assolutamente l'ordine esistente. Questo è l'obiettivo, non è azzerare. Loro azzerano un movimento quando lo vedono pericoloso, veramente rivoluzionario, quando sta mettendo in discussione l'esistente. Questo non è di oggi, questo avverrà, però non oggi. Oggi loro vogliono riportare, dice: attenzione, state facendo qualcosa che non va, ti riportiamo nell'ambito, questo puoi fare, questo non lo puoi fare. Ecco, come l'ammaestramento che si fa, se qualcuno conosce con i cani, i gatti, che ne so, con gli animali poveri, poverelli, anche loro subiscono, ma il meccanismo è lo stesso. Si dice: questo lo puoi fare e ti do il cioccolatino, questo non lo puoi fare e ti do lo scappellotto. È semplice. Quindi questo è il meccanismo, è un meccanismo molto perverso ed è anche come dire, non tanto facile da vedersi, non è tanto palese. Bisogna andare e bisogna far vedere alla gente che il sistema carcerario, questo controllo repressivo, è su tutti noi, anche quelli che rispettano precisamente la legge, è su tutti. Il problema è capire che appunto il pilastro di questa società è il controllo, perché diventiamo tutte delle macchinette, dei robot che funzionano per mandare in avanti questa società, esattamente così com'è. Allora, per finire, siamo proprio in chiusura, manca un minuto, una buona notizia: una sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale prima, la sentenza del 26 maggio 2016, numero 22120, che dice che lo straniero che non si allontana dall'Italia a seguito dell'ordine di lasciare il territorio impartitogli dal questore non rischia la galera. quest'ultima misura, dice la Cassazione, a seguito del recepimento della direttiva della 2008-115 della Comunità Europea, non è più prevista ed è sostituita da una misura pecuniaria. Quando per l'appunto il cittadino straniero si trattenga sul territorio anche in presenza di un decreto di espulsione, avrà solo una misura pecuniaria, non più la galera come era fino ad oggi. Quindi certo, è sempre pesante la pena pecuniaria, soprattutto per chi, appunto, parliamo di migranti che non ce l'hanno dei soldi, come non ce l'hanno tutte le classi subalterne, però insomma non rischia più la galera. Questa è una, ha ribadito la Corte di Cassazione, però adesso questa vale come fosse giurisprudenza, quindi vale in tutti gli ambiti. Ha ripreso la direttiva della CE del 2008, quindi, però in Italia, nonostante questa direttiva CE, si continuava a praticare, a mettere in carcere chi non rispettava l'ordine di lasciare.